Sostanzialmente l'Appennino viene da circa un decennio di spopolamento. Spopolamento che significa anche invecchiamento della popolazione, quindi stress su quelli che sono i servizi sociali richiesti da una popolazione che ha sempre bisogno appunto, di servizi. Negli ultimi anni invece abbiamo visto un'inversione leggera, trainata soprattutto dalla popolazione che statisticamente è definita come straniera e che si sposta soprattutto in ragione di una dinamica di espulsione, diciamo, dal comune capoluogo. Dico questo perché poi interfacciandoci con chi lavora anche in zona oppure che pendola su Bologna, l'esigenza di avere case magari più grandi in grado di giustificare anche le pratiche di ricongiungimento familiare fanno sì che non potendosi permettere una cosa del genere nei comuni, non dico il capoluogo, ma anche più vicini, ci si sposti. Questo significa però anche l'evidenziarsi di un rischio di ghettizzazione, perché se noi vediamo che le dichiarazioni dei povere sono più concentrate in Appennino che nella zona complessivamente della città metropolitana. Lo stesso avviene in pianura nei comuni di Galliera, quelli a ridosso della provincia di Ferrara. Insomma, osserviamo questa dinamica. In Appennino si evidenzia il rischio di ghettizzazione ancora di più perché mancano tutte quelle infrastrutture o sono meno, un po' più rare, che hanno a che fare con le scuole, che hanno a che fare con gli asili, che hanno a che fare con i trasporti e che permetterebbero quindi una vita, diciamo, dignitosa anche per chi magari non per forza voleva vivere, diciamo, in contesti fuori, diciamo, dal capoluogo, che però comunque ci si è ritrovato per ragioni che ben conosciamo. Il fatto che si racconti dell'Appennino come di una zona che può crescere dal punto di vista del turismo, in realtà rischia di incrementare questa problematica, perché quello è un settore dove il valore, i salari prodotti sono estremamente bassi. Questo significa impoverimento dei comuni. Non parlo in senso astratto, parlo proprio dei soldi che vengono dichiarati e quindi presi attraverso le aliquote che sono comunali e che servono a finanziare i servizi che non ci sono. Quindi diventa un po' un cane che si morde la coda, una ghettizzazione che è non soltanto sociale ma anche economica.